in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale, l'ultima di aprile, passato anche questo mese, se tutto va bene la prossima sarà quasi vicino alla fine del lockdown, quindi insomma comunque questo famoso tunnel e la famosa luce alla fine del tunnel che stiamo iniziando a vedere. Come potete immaginare però anche questa settimana ci occupiamo principalmente di temi legati a questa pandemia, perché comunque è su tutte le prime pagine dei giornali, ha oscurato tanti altri temi, dalle guerre alle crisi ad altre crisi sanitarie che ci sono nel mondo, o addirittura pensate questa settimana che sta per chiudersi si dovrebbe celebrare anche il famoso Earth Day, il giorno della Terra, che è il 22 di aprile, e tra l'altro quest'anno compiva 50 anni, ma sono state così delle brevi, come le chiamiamo in gergo noi giornalisti, cioè notizie molto, molto piccole che occupano appunto poco spazio perché la pandemia si è presa tutto lo spazio. E cominciamo quindi come sempre da Vox Europe, che parla in particolare di quello che sta succedendo a Vienna. Sapete che l'Austria, Vienna la sua capitale, è uno dei paesi, per volere, soprattutto per decisione politica del cancelliere Kurz, che uscirà, anzi in un certo senso sta già uscendo dal lockdown, e quindi si racconta come in fondo Vienna, e forse anche per questo i viennesi e gli austriaci in generale stanno affrontando la crisi nel modo in cui la stanno affrontando, a Vienna non è il primo caso di epidemia che ha costretto tutti a rinchiudersi, a interrompere la vita normale. E si ricorda in questo bell'articolo che sono passati 3 secoli e mezzo dalla grande peste che nel 1679 colpì appunto in particolare la città di Vienna. Voi direte, nessuno può ricordarsi quello che è successo 3 secoli e mezzo prima, però sono cose che sicuramente, che si spiega nell'articolo, si stratificano un po' nel sentire del quotidiano e quindi appunto lasciano delle tracce. Poi è suggestivo questo paragone, anche per ricordarci appunto come non sia certo questa la prima epidemia che coinvolge grandi paesi europei o il mondo, e soprattutto ricordiamoci che questo famoso distanziamento sociale non è certo una cosa tecnologicamente particolarmente nuova, anzi è proprio una old technology che funziona ancora molto bene. Vi dicevo delle notizie che comunque sono in qualche modo monopolizzate dal coronavirus. Ce n'è una che apparentemente potrebbe sembrare slegata, in realtà non lo è, ed è quella del crollo del prezzo del petrolio, perché come sappiamo, insomma, le attività economiche si sono fermate ovunque, fermati quasi anche tutti i trasporti, e siccome siamo ancora in un'economia fossile di fatto, perché la transizione verso i mezzi di trasporto elettrici è ancora solo all'inizio, fermare i trasporti significa anche fermare praticamente il consumo di fonti fossili, quindi di petrolio. Aggiungiamo che nella maggior parte dei paesi colpiti dalla pandemia si è usciti dall'inverno, quindi non c'è più bisogno del petrolio per il riscaldamento, e non si è ancora entrati nell'estate, quando invece aumenta naturalmente l'utilizzo dell'aria condizionata. Insomma, la domanda di petrolio è crollata e così anche il prezzo del petrolio. Financial Times ha pubblicato un articolo che vi segnalo, tradotto da Internazionale di questa settimana, perché è molto sintetico, ma spiega veramente quali potrebbero essere le conseguenze di un crollo del prezzo del petrolio, che quasi fa sorridere, perché per i futures, che sono quegli strumenti finanziari che danno un prezzo a qualcosa che gli operatori poi compreranno tra mesi, i futures sono addirittura arrivati a essere negativi. Questo naturalmente non vuol dire che se andiamo a fare benzina ci pagano per fare benzina. E quindi il titolo dell'articolo: un crollo storico sconvolge il mercato energetico. Negli Stati Uniti il prezzo delle forniture di petrolio per maggio è diventato negativo, dicevamo, nessuno vuole questo greggio dopo il crollo della domanda causato dalla pandemia di Covid-19. Il 22 di aprile, questo è l'ultimo dato che l'articolo di Financial Times e anche quelli di Wall Street Journal sono riusciti a inserire e poi naturalmente internazionale a tradurre, il prezzo del petrolio è sceso ancora. In Europa quello del greggio Brent, che è un parametro di riferimento per i mercati mondiali, è sceso a 19 dollari al barile, mentre il prezzo dei contratti futures su un barile di greggio West Texas Intermediate, cioè il famoso WTI, con consegna a giugno, è sceso a 11,11 dollari, pensate la metà del prezzo del giorno prima. Tutto questo si inserisce, e questa è una cosa che ha a che fare, ma forse neanche tanto, con il Covid, come sapete, tra braccio di ferro tra l'OPEC, la Russia e il terzo incomodo, se vogliamo, l'Iran, altro grande produttore di petrolio. C'è un'altra incognita, se vogliamo. E molti giornali ne hanno parlato, ed è quella del Venezuela, che sarebbe in teoria un altro grande produttore di petrolio, e vedremo quando si uscirà dalla crisi quale ruolo potrebbe avere appunto il grande paese sudamericano che fino a pochi anni fa traeva un relativo benessere proprio dall'estrazione e dalla raffinazione del greggio e come invece sappiamo adesso è in crisi, ma da molto prima che il prezzo del petrolio crollasse. A proposito di un altro tema che ha interessato molto anche commentatori, giornali e opposte fazioni politiche in questi giorni in Italia, quello della regolarizzazione dei migranti, perché come sapete, oltre al fatto che ci sono delle persone non regolarizzate che si occupano per esempio dei nostri anziani o delle persone più deboli, quelle che con questo neologismo secondo me abbastanza brutto che è badanti, cioè persone che badano a qualcuno, ma ci sono anche, e questa è una vera emergenza, le persone che lavorano nei campi e queste persone che lavorano nei campi in questo momento di raccolto diventano molto importanti, ma nella maggior parte dei casi, e non solo in Italia, non sono regolari. E quindi Liberation ha pubblicato questo lungo articolo intitolato Per una regolarizzazione delle persone migranti in Europa. E l'esempio che si prende è quello del Portogallo, che ha concesso un permesso di soggiorno ai migranti fino al 30 giugno. E quindi in Francia, da qui l'articolo di Liberation, c'è un collettivo che chiede una carta di soggiorno per le persone migranti senza permesso regolare. Primo, perché, come abbiamo detto, sono spesso manodopera di cui abbiamo estremamente bisogno, ma anche perché comunque sono nei paesi, in questo caso si parla della Francia, ma succede lo stesso in Italia, sono completamente privi di tutele, anche sanitarie, e quindi in un momento in cui c'è un'emergenza sanitaria sarebbe anche importante, utile a tutti, se la vogliamo vedere dal punto di vista utilitaristico e non solo di solidarietà sociale, sarebbe utile per tutti sapere che da loro non può venire un ulteriore rischio per aggravare la pandemia. Sempre da internazionale, vi segnalo, e anche qui, in realtà quando l'articolo è stato pubblicato non c'entrava, il motivo non era l'epidemia, la pandemia, però c'è un legame con la pandemia e l'articolo è questo, si intitola Piatti troppo raffinati, è un'inchiesta pubblicata dal Guardian e tradotta da internazionale che parla appunto di questi piatti economici, comodi e gustosi che riempiono i supermercati e le nostre tavole, ma gli alimenti ultraprocessati, quei piatti pronti che magari sono così comodi per chi o non ha voglia o non può o non ha tempo o non ha la passione di cucinare, si infilano nel microonde e si mangiano, però sono un rischio per la salute proprio perché non sono certo, appunto, non sono frutto di una cottura semplice ma di un processo industriale molto elaborato, potrebbero essere la causa principale dell'obesità nel mondo. E quindi ecco il legame, per questo ve lo sottolineo, perché quando si comincerà fuori dall'emergenza a ragionare sulle stranezze di questa epidemia, più che sulle stranezze, su ciò che ancora non comprendiamo fino in fondo, per esempio il fatto che i bambini quasi non si ammalino, che vengano colpite persone con un certo tipo di patologie pregresse e non altre, c'è questo che è un dato di fatto praticamente, che l'obesità è un altissimo fattore di rischio, non naturalmente solo per il Covid, ma per tantissime altre malattie. E da qui questo tema di cui forse quando saremo fuori dall'emergenza dovremo cominciare a occuparci più seriamente, che è quello appunto di non creare delle generazioni o sovrappeso o addirittura di obesi. Pensate che per esempio negli Stati Uniti, questo è un dato che comincia a emergere dalle analisi, insieme a quello del fatto che le minoranze etniche come i neri, ma anche i nativi americani, sono colpiti a tassi doppi rispetto ai bianchi dal Covid, ma l'altro dato è che negli Stati Uniti sono molto colpiti rispetto ad altri paesi anche le persone, i bambini e gli adolescenti, perché negli Stati Uniti un terzo della popolazione, e la percentuale è ancora più alta tra i bambini e gli adolescenti, è obeso e un altro terzo è sovrappeso. Il tema degli aiuti economici è attraversato naturalmente tutti i giornali, molto spazio alle decisioni prese o comunque diciamo alle predecisioni prese nel Consiglio europeo di giovedì, ne parlano tutti, Le Figaro che spiega come possa essere vista in un certo senso come una vittoria dei paesi che hanno più bisogno di aiuto, che sono in questo momento l'Italia, la Spagna, ma anche la Francia e la Grecia. Mentre Le Monde si è concentrato su un altro tema, perché sempre dalla Francia viene un appello a affiancare agli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sotto tiro non solo da parte di Donald Trump, che ha congelato i 500 milioni di fondi per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che gli Stati Uniti versavano, ma anche da altre parti, perché l'OMS viene accusato di aver dichiarato troppo tardi la pandemia e comunque di aver preso delle grandi cantonate. Che le accuse siano vere o no, anche questo lo vedremo. Però la Francia ha proposto, dalle colonne di Le Monde, un gruppo di scienziati lo ha fatto, di affiancare degli esperti internazionali a quelli che già lavorano all'OMS. Ma qui forse potremmo dire, dalla nostra esperienza di proliferale di task force, che forse non è una questione di quantità di esperti, ma di qualità. Ma appunto vedremo. L'ultima segnalazione che vorrei farvi viene ancora dalla Francia, perché abbiamo detto come negli Stati Uniti le minoranze siano più colpite perché hanno meno accesso, innanzitutto in generale, godono di una salute più fragile, hanno stili di vita che li mettono più a rischio e poi hanno meno accesso alle cure sanitarie. Ma lo stesso accade nelle banlieue francesi. E l'altro allarme, questo lo lanciano tutti i giornali francesi, è per il Ramadan, il grande periodo, la celebrazione che anche si concretizza in un digiuno durante il giorno. È una delle grandi occasioni di mostrare la fede per le persone di fede musulmana, e però è anche in generale un'occasione per riunirsi più frequentemente per pregare. E questo naturalmente ai tempi di richiesta di distanziamento sociale è un rischio. Avevo ancora tante segnalazioni, ma temo di aver finito il tempo e quindi ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.